punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. È stata una settimana cruciale per la politica sia italiana che europea. A Bruxelles il vertice europeo, mentre domenica il governo Monti ha approvato il cosiddetto decreto Salve Italia. Ma è stata anche una settimana segnata dalla cronaca, l'arresto di Michele Zagaria, re dei Casalesi, e l'assoluzione in appello di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Infine spazio anche a cose più leggere, come lo spettacolo di Fiorello con ascolti record. Ma partiamo dall'Europa. A Bruxelles, dicevamo, il vertice europeo, un vertice piuttosto teso, con la spaccatura dei paesi dell'euro da una parte e la Gran Bretagna dall'altro. Per salvare la moneta unica ci sarà dunque un accordo a 26, esclusa la Gran Bretagna. Ne parliamo con Sergio Nave, inviato di Radio 24 a Bruxelles. Allora Sergio, è stato faticoso raggiungere questo accordo? Fino a un certo punto, nel senso che sicuramente la nottata tra giovedì e venerdì è stata lunga, molto complicata e diplomaticamente estremamente tesa, però in qualche modo questo accordo ha avuto due conseguenze. La prima negativa, perché appunto la Gran Bretagna è rimasta di fatto isolata. La seconda, e questo è il paradosso, positiva, perché avendo il maggiore oppositore a questo rafforzamento delle politiche fiscali, delle politiche di bilancio ormai nell'angolo, paradossalmente i 17 paesi dell'Eurozona hanno potuto esercitare quella massa critica di attrazione che ha attratto gli altri 9 paesi. Di fatto ormai quello che è nato a Bruxelles in questo fine settimana è un trattato quasi completamente europeo, manca solo Londra, che però approfondirà ulteriormente l'integrazione economica, l'integrazione di bilancio, l'integrazione fiscale tra i paesi dell'Unione Europea. Ecco Sergio, possiamo dire qualcosa in più su questo accordo? In che cosa consiste questo accordo sulle politiche fiscali? Ci sono due tipi di accordi nel testo finale. C'è un accordo che in qualche modo impone un maggior rispetto del pareggio di bilancio, perché si dice esplicitamente che dovrà essere inserito nelle costituzioni o equivalenti. Si potrà sgarrare a questo pareggio di bilancio solo per mezzo punto del PIL nominale, quindi c'è un forte controllo che verrà esercitato anche attraverso gli organi comunitari come la Commissione, anche se essendo un trattato che esula, è un trattato intergovernativo, esula dai trattati comunitari, occorrerà anche capire bene il ruolo delle istituzioni comunitarie. Quindi c'è una maggiore integrazione, una maggiore sorveglianza sui paesi che sgarrano, perché ormai purtroppo non si può più uscire più di tanto dai parametri. La seconda parte invece riguarda la cosiddetta potenza di fuoco a difesa dell'euro, e ci sono questi 200 miliardi di euro che i paesi dell'Unione Europea si sono impegnati a dare al Fondo Monetario Internazionale attraverso prestiti bilaterali, oltre a un anticipo dell'entrata in vigore del Fondo Salva Stati Permanente, l'ESM, che entrerà in vigore a partire da luglio dell'anno prossimo e che quindi non coesisterà formalmente con l'attuale Fondo Salva Stati, però comunque avrà una potenza pari a 500 miliardi. Non è forse quella potenza di fuoco che ci si aspettava alla vigilia, ma qui ha giocato molto il veto tedesco, però è qualcosa e i mercati in qualche modo hanno apprezzato. Grazie Sergio Nava, collegato con noi da Bruxelles. Vi ricordo che per sapere di più su quanto accaduto al vertice europeo, l'appuntamento è con 30 minuti in cronaca questa sera alle 19:30. Punto e a capo. Riprendiamo con la politica italiana. L'hanno chiamato decreto Salva Italia e il provvedimento approvato domenica scorsa dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo allora come sono andate le cose. Una manovra da 30 miliardi, quella varata dal governo, che non contiene l'aumento dell'IRPEF, come anticipato proprio da Radio 24. Un provvedimento indirizzato al rigore, allo sviluppo e all'equità, spiega Monti. Un decreto, aggiunge il Presidente del Consiglio, che possiamo definire Salva Italia. L'Italia ha visto tanti decreti salva qualcosa, salva calcio, salvi solito espressioni di interessi particolari, rimedio a situazioni contingenti. Questo, se volete, chiamatelo decreto Salva Italia. Vogliamo un'Italia orgogliosa e che gli italiani non si sentano derisi, come in passato, dice ancora Monti. Quanto alle misure, si va dall'aumento dell'IVA dal secondo semestre 2012 alla stretta sulle pensioni, dal ritorno dell'ICI all'una tantum retroattiva sullo scudo fiscale. Quindi i costi della politica. Si parte dal ridimensionamento dei consigli provinciali con il taglio delle giunte, stop ai doppi stipendi dei ministri. Abbiamo dovuto distribuire dei sacrifici, ma lo abbiamo fatto in modo equo, chiarisce il Presidente del Consiglio Monti, che annuncia. Mi è sembrato sembrato doveroso, come atto di sensibilità individuale, rinunciare al compenso come Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sacrifici da parte di tutti, dunque, la linea scelta da Monti, e il principio non poteva mancare negli interventi sulle pensioni, come quelli chiesti con il blocco della perequazione, spiega commuovendosi il ministro del welfare Elsa Fornero. Tutte le decisioni sono state prese in modo collegiale, dice poi il ministro dello sviluppo economico Passera. Abbiamo fatto il meglio in poco tempo, commenta il ministro Giarda. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma sentiamo nel dettaglio che cosa contiene questo decreto Salva Italia. Stretta su pensioni, una tantum su capitali scudati, sgravi per le imprese, ICI, ritocco all'insù dell'IVA e nessun aumento delle aliquote IRPEF. Ecco la manovra ribattezzata Salva Italia. 30 miliardi di euro, di cui 12-13 di riduzione di spese e il resto di aumento delle entrate. Il capitolo più corposo, quello sulla previdenza, dal 2012 estensione del contributivo pro rata per tutti, blocco dell'adeguamento degli assegni all'inflazione, tranne di quelli fino a 960 euro, addio pensione di anzianità, si chiamerà anticipata e si uscirà solo con 41 anni per le donne e 42 per gli uomini, aumento dell'età di vecchiaia delle donne nel settore privato, nel 2010 andranno in pensione a 62 anni e nel 2018 a 66. E poi nuove imposte, torna l'ICI sulla prima casa, tassa di lusso su auto di grossa cilindrata, barche e aerei. Da settembre 2012 aumento dell'IVA di 2 punti, imposta dell'1,5% sui capitali scudati. Nessun incremento invece delle aliquote IRPEF, come invece prevedeva la bozza del decreto legge, e ancora tracciabilità del contante sopra i 1.000 euro e norme più efficaci per il controllo dei movimenti finanziari. In arrivo anche una sforbiciata sui costi della politica, via le giunte provinciali, riduzione dei consiglieri provinciali e dei componenti delle 8 authority, soppressi INPDAP ed EMPALS. E infine il capitolo sviluppo, defiscalizzazione degli utili reinvestiti nel capitale delle aziende, supporto alle banche per il sostegno al credito delle piccole e medie imprese e arrivo dell'ACE, aiuto alla crescita economica, una misura che incentiva la capitalizzazione delle imprese. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è da dire comunque che ci sono allo studio alcune modifiche, quindi nei prossimi giorni potremo avere delle novità a questo riguardo. E per spiegare la manovra agli italiani, il Premier è andato in televisione a Porta a Porta. Sentiamo allora Mario Monti. Con questa operazione, che è di rigore, di equità e di crescita, io ho chiesto agli italiani molti sacrifici, ma l'alternativa non era andare avanti come se niente fosse senza i molti sacrifici, ma era il rischio molto concreto che lo Stato non potesse più pagare, che gli stipendi non potessero più essere pagati, che le pensioni non fossero più pagate. Non abbiamo da guardare molto lontano. La Grecia è la rappresentazione di che cosa sarebbe potuto accadere in Italia. Ma davvero eravamo così vicini alla Grecia? E noi abbiamo avuto sempre una sensazione, vabbè, noi siamo più forti. Siamo più forti e quindi saremmo stati ancora più colpevoli se fossimo finiti in una situazione greca, perché siamo un paese più solido, eccetera. Però siamo un paese che ha vissuto bene consumando la ricchezza accumulata in passato dalle generazioni precedenti, più che producendone di nuova. Ma cosa pensano i cittadini di questi nuovi provvedimenti? Sentiamo ancora Alessandra Schepisi. Sono sacrifici. Se serve a qualcosa a migliorare la vita un po' di tutti, ben venga. Bisogna uscire da questa situazione. Purtroppo, come ha detto Monti, dobbiamo un po' piangere. Speriamo che sia solo un po'. La stiamo tirando abbastanza, però se serve che vada a buon porto. Ecco, tirare la cinghia e vada a buon porto, sì. Una cosa è certa. Agli italiani tocca tirare la cinghia. Sacrifici è la parola d'ordine della manovra Salva Italia. Ma gli italiani sono pronti a sostenerli? Il sondaggista Nicola Piepoli. In linea di principio gli italiani piangono, però obbediscono. Non è che approvino del tutto la stangata, diciamo che sono metà e metà. Però quelli che non approvano obbediscono e quelli che approvano obbediscono. Ci si rassegna, perché a un certo momento così uno pensa di avere avvenire per sé e per i figli. E del resto, dal rapporto Censis pubblicato qualche giorno fa, emergeva che ben il 57% degli italiani si dice disponibile a rinunciare al proprio tornaconto per un interesse generale. Esiste cioè una sorta di responsabilità collettiva pronta ad entrare in gioco in momenti di crisi. Insomma, alla fine, gli italiani, seppur a malincuore, obbediranno, come diceva Piepoli, ma ciò non toglie che molte misure vengano giudicate inique, soprattutto una. Non si può essere equi nel tassare la prima casa, nel non rivalutare le pensioni. Chi troverò se aumentano pure l'ICI e l'IVA ha sempre a decurtare la pensione. Certo, questo effettivamente, questo tasso sull'ICI della prima casa era meglio non toccarlo. Io dovrò pagare l'ICI su una casa ereditata che è in un posto dove non vale nulla, però siccome è grande dovrò pagare l'ICI e io non ho una pensione. Non so cosa farò. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Veniamo nel dettaglio ad alcuni di questi nuovi provvedimenti. Innanzitutto la reintroduzione dell'ICI per la prima casa, che si chiamerà IMU, Imposta Municipale Unica. Se ne è parlato questa settimana a Salvadanaio. Cristiano Dell'Oste, del Sole 24 Ore, al microfono di Deborah Rosciani. Quella che noi chiamiamo IMU è a tutti gli effetti un ritorno dell'ICI, con un nome diverso e con alcune caratteristiche diverse. Guarda, forse possiamo fare un punto e dire intanto cosa cambia per la prima casa, che è la novità più grande, perché poi gli altri immobili già erano tassati di fatto. Allora, noi abbiamo innanzitutto un'aliquota base che viene fissata nel 4 per 1000, che poi i comuni potranno alzare o abbassare di 2 punti. E poi abbiamo una detrazione di 200 euro, cioè uno sconto dall'imposta. E l'altra novità forte che riguarda questa nuova imposta municipale è la rivalutazione del valore sul quale viene calcolata questa imposta. Cosa succede? Succede che la rendita catastale, che prima doveva essere moltiplicata per 100 così da ottenere il valore su cui calcolare l'ICI, adesso dovrà essere moltiplicata, se parliamo di prima casa, per 160. Su quel valore si andrà a calcolare l'aliquota del 4 per 1000, che poi comune per comune potrà essere ridotta eventualmente fino al 2 o aumentata fino al 6, perché i comuni avranno appunto, come dicevamo, una manovrabilità di 2 punti. Dopodiché, una volta ottenuta questa imposta, si andrà a scontare la detrazione di 200 euro. E per tutti varrà la detrazione di 200 euro? Varrà per tutti. E anche in questo caso il decreto ci dice che i comuni potranno eventualmente aumentare questa detrazione fino ad arrivare ad azzerare l'imposta. La rendita catastale in tutti i casi aumenta del 60%, è un concetto sintetico corretto, perché qui vanno fatte delle precisazioni, perché in realtà questa definizione ha generato molta confusione. Sì e no, nel senso che nei giorni scorsi, quando si parlava di un'ipotesi di rivalutazione delle rendite, si pensava che il governo avrebbe agito sul moltiplicatore della rendita, nel senso che l'ultima volta che le rendite sono state rivalutate con un aggiornamento del 5%, che c'era e che rimane fermo, l'ha fatto il governo Prodi, eravamo nel 1996, poi tutto è rimasto fermo. Si pensava che questo 5% sarebbe stato portato, chi diceva il 15, chi diceva il 20, chi diceva il 30. In realtà la rendita in quanto tale rimane ferma. Quello che cambia è il numero per cui la rendita deve essere moltiplicata così da arrivare al valore catastale. Il risultato finale non è diversissimo, però concettualmente cambia molto, anche perché questo numero è differenziato a seconda della categoria catastale. Noi adesso abbiamo detto, per le case si passa da 100 a 160, per i negozi per esempio si passa da 34 a 55. Fa discutere intanto il taglio dei contributi ai giornali di partito, a quelli gestiti da cooperative diocesani. Già l'ultima manovra, a firma Tremonti, aveva tagliato da 170 a poco più di 40 milioni i contributi per il 2012. Secondo alcuni direttori di giornali a rischio, il governo Monti dovrebbe riorganizzare il settore dell'editoria. Sentiamo Norma Rangeri, direttore del Manifesto, al microfono di Valeria De Rosa. La questione dell'editoria, dell'informazione in generale, come si vede anche dal capitolo delle frequenze, non sembra essere tra le priorità di questo governo, e soprattutto si pone una questione di tempi che sono molto stretti, perché se Monti vuole mettere mano al settore lo deve fare, ma deve prima rimpinguare il fondo di 80-90 milioni di euro, quindi non una cifra strabiliante, che è quel che serve ai 100 giornali che dipendono per una parte dei loro bilanci, comunque fondamentale, di restare aperti e di poter poi affrontare la eventuale riforma nel 2013. Ecco, se non c'è questo passo intermedio, quando arriverà la riforma i giornali saranno tutti chiusi. Qui in Italia c'è un problema proprio di fondo, che è quello del numero dei lettori. Le 100 testate coinvolte dai fondi dell'editoria vendono ogni giorno 400.000 copie, sono anche testate poco conosciute a parte il manifesto, molte sono locali e quindi hanno una diffusione molto ramificata e molto consistente, e te lo dice anche il numero, 400.000 copie al giorno sono una fetta importante dell'editoria quotidiana. Altro discorso è poi il fatto che siamo in un momento di crisi e che quindi va fatta una moralizzazione di questo fondo, vanno sostenuti i giornali che effettivamente sono in cooperativa, che effettivamente sono no profit, perché poi i soldi si sprecano. Punto e a capo. PIL e consumi in calo nel 2012, il PIL diminuirà dello 0,6% mentre i consumi dello 0,3%, e quanto stima l'ufficio studi di Confcommercio, evidenziando il fatto che l'Italia sarà in recessione. Variazioni negative sono attese già fra il terzo e il quarto trimestre di quest'anno. Consumi in calo prevede Confcommercio per il Natale, con flessioni anche nei settori tradizionalmente più forti come la tecnologia. Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Partire dal dato di ottobre dell'ICC che è negativo, dopo settembre è negativo, quindi diciamo, abbiamo tutte le premesse per la concretizzazione di una fase recessiva, seppure di moderata intensità e si spera di moderata durata. Per il Natale il sentimento delle famiglie appare tutto sommato non particolarmente depresso, diciamo come lo scorso anno, quindi niente di speciale. Ci saranno dei cali dei consumi che riguarderanno soprattutto piccoli elettrodomestici, l'abbigliamento e anche la tecnologia non è esente da qualche rischio, mentre sono sempre cresciuti i consumi di tecnologia, a Natale qualche possibile battuta d'arresto potrebbe esserci. E questo diciamo è un po' il senso della paura della recessione. Punto e a capo. Ancora una buona giornata da Alessandra Tedesco, bentornati a Punti a Capo, una settimana di notizie in un'ora. Come dicevamo anche in apertura, è stata una settimana segnata anche dalla cronaca, ad iniziare dalla cattura di Michele Zagaria, boss dei Casalesi. Avete vinto voi, ha vinto lo Stato. Queste le prime parole del boss super latitante Michele Zagaria, ammanettato dopo ben 16 anni di latitanza. Il boss era nascosto nel suo paese a Casapesenna, nel Casertano, in un bunker sotto una camera della casa il cui pavimento si sposta sui binari per lasciare accesso al covo. Un rifugio, insomma, di ultima generazione, munito anche di telecamere di protezione e di televisori. All'interno della villetta, che è stata circondata dagli uomini dello SCO e dalle squadre mobili di Caserta e Napoli, l'individuazione del nascondiglio, la certezza degli inquirenti della presenza di Zagaria. Ci sono volute diverse ore per raggiungere poi il suo nascondiglio e infine arrestarlo. Detto Capastorta, il capo dei Casalesi, è l'ultimo del clan ad essere catturato. Il boss è apparso molto invecchiato rispetto alle foto e agli identikit diffusi negli ultimi tempi. All'interno del nascondiglio la polizia ha ritrovato tra gli effetti di Zagaria anche i libri del magistrato Raffaele Cantone, per anni impegnato nella caccia ai camorristi nella DDA di Napoli. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E sulla scoperta del bunker di Zagaria, Raffaella Calandra ha sentito il procuratore aggiunto della DDA di Napoli, Federico Caffiero De Rao. Una discontinuità sul pavimento. Quella discontinuità ci ha segnalato che c'era certamente qualche cosa di anomalo sotto quel pavimento. E lì abbiamo cominciato a battere. Abbiamo tolto la corrente e là c'è stata una reazione. Ho cominciato a parlare con il proprietario, quello che lo teneva, per capire cosa stesse succedendo. Quindi abbiamo avuto la conferma che stava sotto e a quel punto abbiamo detto: lo Stato ha vinto, Zagaria, esci. E lui a quel punto? Non ha detto nulla. Quando sono sceso io mi si è avvicinato e mi ha detto: dottor Caffiero, ora la vedo di persona. Si immaginava così il bunker, era un bunker molto anche tecnologico. Addirittura aveva una parte che si muoveva su binari e quindi finiva per collegarsi direttamente al muro in modo da chiudere qualunque intercapedine. Voi avete capito da quanto tempo si nascondeva in quel preciso bunker? Penso comunque da molto. Ma questa è stata anche la settimana in cui è arrivata la sentenza d'appello per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 4 anni fa a Garlasco. Alberto Stasi è stato nuovamente assolto. Conferma la sentenza pronunziata dal GUC nei confronti di Stasi Alberto. 40 secondi in tutto per ribadire l'assoluzione dell'unico imputato e sancire che il delitto di Garlasco, 4 anni dopo, resta ancora senza un colpevole. Impiega meno di un minuto la Corte d'Assise d'Appello di Milano per confermare che contro Alberto Stasi, accusato dell'omicidio della fidanzata Chiara, le prove non ci sono o sono contraddittorie, come già ha stabilito il primo giudice. Pochi secondi che regalano ad Alberto sorrisi, lacrime ed abbracci, mentre lasciano disorientamento sul viso della mamma di Chiara, Rita Poggi, che stretta al marito esce dall'aula senza guardare. No, non mi arrenderò mai. Avete ancora fiducia nella giustizia? Nella giustizia, sempre. È giusto così, si limita a dire invece Alberto Stasi, l'ex bocconiano, ora praticante commercialista, per il quale l'accusa aveva chiesto 30 anni di carcere per un delitto che il sostituto procuratore Laura Barbaini considerava frutto di deviazioni sessuali. Anche nuovi esami aveva sollecitato la procura, ma la corte ha detto no e ora su questo caso, per dirla, col difensore di Stasi, Angelo Giarda, pesano gli effetti di indagini andate solo in una direzione. Chi deve fare le indagini sa che cosa deve fare. Se vuoi, e ricominci da capo. Raffaella Calandra, Radio 24, sulle 24 ore. È tornata in libertà martedì Erika De Nardo, la ragazza che nel 2001 uccise madre e fratello a Novi Ligure, ha scontato 10 anni di carcere. Il 21 febbraio del 2001 Erika De Nardo, 16 anni, e l'allora fidanzato Omar Favaro, 14, massacrarono a coltellate la madre di lei, Susi Cassini, ed il fratellino 12enne, Gianluca. Erika, che negli ultimi mesi ha vissuto nella comunità di Don Mazzia, Lonnato del Garda, in questo periodo ha studiato, prima nel carcere Beccaria, poi una volta maggiorenne in quello di Verziano, e si è laureata in filosofia. Ad aspettarla in questi anni il papà Francesco De Nardo, con il quale trascorrerà le vacanze di Natale, anche se, spiega Don Mazzi, la ragazza dopo tornerà a vivere in comunità, probabilmente all'estero. Omar invece è tornato in libertà il 3 marzo del 2010 e vive in Toscana. Entrambi chiedono di essere dimenticati. Erika, hanno fatto sapere dalla comunità, renderà nota anche una lettera con un appello alla stampa. Intanto però entrambi continuano a fare notizia per lo scambio soprattutto di accuse reciproche. Recentemente infatti Omar ha rilasciato un'intervista e si è fatto fotografare davanti alla tomba dei De Nardo. Erika gli ha scritto una lettera nella quale lo definisce un viscido senza dignità. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come avete sentito, dopo i 10 anni di carcere, Erika è stata per qualche mese nella comunità Exodus di Lonato, nel Bresciano. Don Mazzi, a capo della comunità, è intervenuto a 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Ha raccontato anche che cosa gli diceva Erika. Pensa che io non faccio fatica ad ammazzare una mosca e ho fatto quello che ho fatto. E quindi stai lavorando. A parte che volevo anche dirti che era minore quando Erika sì, ha fatto certo, quello che per ha questo fatto la, per questo la era, pena è stata ed anche era sotto più... effetto di sostanze pesanti sulle quali si è poco parlato, delle quali si è poco parlato comunque. Durante il carcere ha dovuto liberarsi anche da questa dipendenza e quindi ha lavorato molto. Però ti devo dire che nei 2 mesi che è con noi ha fatto molto di più che nei 10 anni che è stato in carcere. Perché ha parlato con una psicologa, si è aperto tutto, diceva a me, ha detto a me delle cose che in carcere non ha mai detto. E quindi questo mi fa pensare, eccoci, che il suo lavoro, che sta iniziando adesso, perché mettiamoci in testa che il vero lavoro lo sta iniziando adesso, e spero che quello che mi ha detto sia anche quello che farà. Ecco, Don Antonio, però c'è quello che la gente si chiede e che pensa anche a quel fratellino, a quella madre che non c'è più, se si vuole anche al dramma del padre che ha vissuto tutti questi anni in un rigoroso riserbo e silenzio, ma che doveva essere di fatto anche lui vittima, cioè se fosse rientrato a casa, se fosse stato a casa. Queste sono tutte supposizioni che ha raccontato il giovanotto. Sì, vabbè. Sulle quali va fatto un taglio che non finisce più, compresa quella lettera che è stata pubblicata, che è una lettera che ha mesi e mesi. 2 giorni fa è uscita una lettera di Erika, che dà del viscido molto, a Omar. Sì, anche perché tra l'altro si continua a parlare di fidanzati. Il problema rapporto era tra uno spacciatore e un utente, non era? Hai capito? Questo è il vero problema, il vero rapporto tra i due, era tra spacciatore e utente. Ah, non i fidanzatini. Poi mettiamoci pure il fidanzatino, in quel discorso lì ci starà anche il fidanzatino, ma il vero rapporto era tra spacciatore e utente. Un utente che era la leader, per cui che ha sempre usato per gli affari suoi questo ragazzetto poveretto. Punto e a capo. E veniamo all'emergenza smog a Milano. Ieri, ma anche oggi, fra le 10 e le 18, blocco del traffico e scuole chiuse. Il sindaco Giuliano Pisapia ha spiegato la gravità della situazione e non ci consentiva di aspettare oltre. Al microfono di Katia Caramelli, Giovanni Invernizzi, responsabile del laboratorio di ricerca ambientale della SIMG. È difficile valutare all'interno del PM10. Questo marcatore non è assolutamente il marcatore giusto, perché per verificare dal punto di vista tecnico-scientifico l'efficacia di queste misure dobbiamo riferirci a parametri e indicatori che sono quelli dell'inquinamento da traffico, quindi le nanoparticelle e in questo caso in modo più preciso il black carbon o carbonio ammontare, che rappresenta il grosso delle emissioni soprattutto dei diesel. Noi abbiamo fatto uno studio sull'Ecopass pubblicato questa primavera, in cui abbiamo dimostrato per esempio che dove c'è la zona Ecopass c'è una riduzione del 30-40% di polveri nanometriche di black carbon, mentre il PM10 rimane uguale. È stato anche uno studio che non è ancora pubblicato sulle domeniche a piedi. È vero, le domeniche a piedi sono interventi non strutturali, ma sono interventi che permettono perlomeno di avere in quei giorni, immediatamente, in seguito alla sospensione del traffico, una tossicità molto inferiore del PM10. L'aria che respiriamo è comunque immediatamente molto meno tossica. Parliamo ancora di qualità della vita nelle città italiane. Qual è la città italiana dove si vive meglio? Secondo l'annuale classifica del Sole 24 Ore pubblicata lunedì è Bologna. Fanalino di coda, Foggia. Sentiamo. L'Emilia Romagna fa poker nella qualità della vita, piazzando 4 province ai primi posti dell'annuale ricerca del Sole 24 Ore. La pagella più alta della competizione sul benessere se la giudica Bologna, ma Ravenna spicca nel capitolo affari, Piacenza nella popolazione e Rimini nel tempo libero. Attraverso i dati statistici l'indagine mette a confronto la vivibilità sul territorio in 6 aree significative: i redditi, le imprese, i servizi, la demografia, la criminalità e gli svaghi. Bologna arriva al vertice grazie ai buoni risultati messi a segno in quasi tutte le 6 aree. Spicca in particolare per l'offerta di asili nido. Nel parametro del prodotto interno lordo ha un tasso di occupazione femminile superiore al 45% e un indice di assorbimento libri molto alto. Il capoluogo dell'Emilia Romagna è però in sofferenza per quanto riguarda l'ordine pubblico, penalizzato in particolare da scippi, borseggi e truffe. All'estremità opposta c'è Foggia, che quest'anno completa la discesa della classifica con piazzamenti bassi in tutte le 6 aree di indagine, in particolare sul fronte della criminalità. Qui pesano estorsioni e furti d'auto. Poi nel capitolo lavoro la scarsa occupazione di donne e di giovani e nei servizi i tempi della giustizia civile. Passando alla realtà di maggiori dimensioni è Milano a posizionarsi meglio, salendo al 19° posto, davanti a Roma che arriva a 23°. Rossella Cadeo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pagare di più gli insegnanti meritevoli. Sentiamo come è andata a finire la sperimentazione. Suscitò 1000 polemiche un anno fa la decisione del Ministero della Pubblica Istruzione di dare il via ad una doppia sperimentazione. Una che individuasse le scuole migliori e le premiasse con un massimo di 70.000 euro, l'altra che individuasse e premiasse con una mensilità aggiuntiva gli insegnanti più bravi. Molti commentarono che era ora, perché sappiamo tutti che nella scuola ci sono i famosi insegnanti fannulloni, ma ci sono anche ottimi insegnanti che alla scuola danno veramente tanto. I sindacati invece si lamentarono perché le modalità non erano corrette, dissero che giudicare gli insegnanti è una cosa positiva, ma non così. La sperimentazione comunque alla fine c'è stata ed è stata un successo, almeno a leggere il rapporto stilato dalla Fondazione 3L e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Entusiasti presidi coinvolti come gli insegnanti premiati, ma questo è più ovvio, e anche quelli non premiati, perché potrebbero riceverne una spinta a migliorare. 33 le scuole coinvolte nella sperimentazione a Torino, Napoli e provincia di Milano. In ognuna di queste il preside e 2 insegnanti hanno raccolto le candidature, poi hanno sentito tutti gli altri attori del mondo della scuola, gli altri insegnanti insegnanti, genitori e studenti. Conclusione, 1000 i prof che si sono candidati, 300 gli insegnanti alla fine giudicati meritevoli e che hanno ottenuto la famosa mensilità extra. Quindi adesso che fare? Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L. Questo sistema potrebbe essere reso perenne, cioè a regime. Ogni 3 anni la scuola fa questa valorizzazione dei valutazione dei propri insegnanti e chi il primo 20% prende 2 mensilità, non una, e le prende per i 3 anni successivi, fino a che non si rifà di nuovo la valutazione della scuola. L'auspicio è dunque che il ministro della pubblica istruzione, Francesco Profumo, decida di andare avanti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Quella che state sentendo è il Don Giovanni, l'opera che ha inaugurato mercoledì 7 dicembre la stagione lirica della Scala di Milano. Sentiamo il commento del giorno dopo di Armando Torno. Il Don Giovanni ieri sera alla Scala è stato un successo per il pubblico. Certo, gli intenditori hanno avuto qualcosa da dire, ad esempio all'inizio del secondo atto uno spettatore si è rivolto a Barenboim dicendo lento, lento, troppo lento, e forse aveva le sue ragioni. C'era comunque un grande pieno di autorità nel palco reale tra Napolitano e Monti, si è materializzato il convitato di pietra, colui che trascinerà Don Giovanni all'inferno. Cosa dire? Compagnia di canto molto buona, qualche piccola riserva sul direttore, le scene buone, la seconda parte un po' meno la prima, l'addobbo floreale del palco reale veramente l'ha trasformato in un cimitero e questo non possiamo farci nulla. Comunque un Don Giovanni tutto sommato riuscito, è piaciuto al pubblico. Ai musicofili certamente ha lasciato qualche perplessità, ma la prossima volta sarà senz'altro meglio. Ancora un record questa settimana per Fiorello. La quarta e ultima puntata di Il più grande spettacolo dopo il weekend, trasmessa lunedì, è stata vista da 13.400.000 spettatori, con uno share di più del 50%. Decisamente un record assoluto. Alla fine, il più grande spettacolo dopo il weekend è sempre solo Fiorello. Quando parla di politica... Un po' mi duole, perché poverino non riusciva a dire la parola, perché dovete fare i sacri. Dovete fare i sacri. Ce va da Vespa! Chi è? Benvenuta, Lici, eccola qua, è tornata. Salve, dindon, chi è? L'IRPEF! No! Quando prende in giro la TV... Io quei bambini mi fanno impazzire. Ciao, come ti chiami? Marco! Cosa ci canti? Il sole mio! Il sole mio! Ma chi sono? Quando canta con Jovanotti, balla con Bolle e sovverte le regole Rai. Secondo me, al posto del cavallo di Viale Mazzini, ci vorrebbe una statua enorme, un profilatticone. Salva la vita sto coso! Come il Beghelli! Non ci posso credere! Anzi... chiamiamolo Salva la Vita Pischelli. E così l'attesa per Benigni si sgonfia in un quarto d'ora di battute che sembrano di un'altra epoca, meglio quando non vuole far ridere. Andrea Pazienza l'ha lasciato scritto, non bisogna mai tornare indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. La quinta puntata? Fiorello assicura non ci sarà. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo ora di libri. Mercoledì alla fiera della piccola editoria Più Libri Più Libere a Roma sono stati diffusi i dati sul mercato editoriale elaborati da Nielsen. Da gennaio a ottobre, escluso quindi il Natale, il periodo diciamo più ghiotto per chi vende i libri, il mercato editoriale ha registrato un calo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Buone notizie dal settore bambini e ragazzi e da quello definito non fiction pratica, ossia libri di cucina, benessere e tempo libero. Abbiamo sentito il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Marco Pulillo. Il mercato è in sofferenza, ma generalmente il mercato è in sofferenza. Il mercato spesso e volentieri si rianima nel momento in cui c'è il grande successo che attira gente in libreria e di conseguenza quando uno entra nel punto vendita per cercare un determinato libro, lo trova, lo compra, poi gira tra i banchi, guarda qualcosa, trova sempre un libro che gli interessa e magari esce con il libro che voleva comprare più 1 a 2 aggiunte. Quando invece il mercato non ha questi elementi che scatenano l'interesse, che scatenano la voglia di acquisto, allora tende a soffrire un po' di più perché la gente non ha l'occasione per andare. È mancato forse i 2 o 3 grandissimi titoli, sperando che arrivino magari adesso sotto Natale, anche se ormai siamo agli sgoccioli dell'anno, per dare una spinta alle vendite in generale. Ecco, sempre per quanto riguarda il mercato generale, c'è stata un'impennata del mercato, diciamo, rivolto a bambini e ragazzi, e anche la cosiddetta non fiction pratica, insomma libri di cucina, di benessere, tempo libero. Come interpreta questo dato? Ma guardi, il mercato per ragazzi fortunatamente è in crescita da tempo, nel senso che è una conferma di un trend che stiamo avendo già da un po'. E questo fa ben sperare anche per il futuro, nel senso che se effettivamente i bimbi in età giovanissima si abituano a prendere in mano un oggetto che si chiama libro, a guardarlo, a sfogliarlo, a giocarci, perché in molti casi sono anche dei libri giocattoli in qualche modo, questo avrà certamente una ripercussione positiva man mano che questi bimbi diventeranno ragazzi, adulti, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la manualistica, io credo che questo sia un incremento dovuto al successo gigantesco di alcuni libri di cucina, molto spinti dalla popolarità dei personaggi che li hanno scritti, dalle trasmissioni televisive, quindi un successo legato al personaggio, all'autore in qualche modo, e non a un trend che dice adesso dobbiamo lavorare su quel settore perché è un settore che ha la possibilità di svilupparsi in futuro in maniera marcata. In questo caso ci sono stati libri di Benedetta Parodi, della Clerice, eccetera, eccetera, che hanno avuto delle vendite altissime e di conseguenza il mercato ne ha risentito come quota di quella categoria rispetto ad altre. E parliamo ancora di libri. Scrittori, registi, attori al Courmayeur Noir in Festival, che si conclude domani, sono d'accordo su un aspetto fondamentale. Il noir è il genere che meglio racconta la realtà o che più vi si avvicina, come dice uno dei giurati, il regista Antonello Grimaldi, che ha diretto fra l'altro alcune stagioni di Distretto di Polizia e Il Mostro di Firenze. L'ha intervistato Marta Cagnola. Col noir veramente si possono raccontare un sacco di cose, forse più che con qualunque altro genere di film. Intanto perché ci sono tanti personaggi, un po' stereotipati però nemmeno fino in fondo, quindi anzi, forse la cosa più interessante sono le variazioni sul tema, visto che proprio i personaggi sono sempre qui, il buono, il cattivo, la donna, lo scemo, il killer, allora puoi giocare molto su quello. E di conseguenza però raccontando più personaggi, alla fine viene fuori uno spicchio di società più larga magari che se facessi un film solo su un solo personaggio. Noir sia al cinema che in televisione, ultimamente più in televisione perché il cinema di genere in Italia è molto avaro. Eh sì, e questo secondo me è un grave errore, una grave pecca, cioè ormai un regista non può sbagliare un film, quindi scatta anche una sorta di autocensura, ma non tanto di argomenti, attenzione, perché poi un produttore intelligente che affronta anche un argomento scomodo si trova anche, e che proprio sapendo che non puoi sbagliare il film, probabilmente tu per primo ti dirigi verso una storia più tranquilla, verso una storia che può arrivare a più gente possibile, e allora cominci a scartarne intanto quelle di genere e poi magari anche quelle che vanno troppo in profondità o quelle che parlano di argomenti troppo scottanti, e però in questo modo appiattisci completamente tutto il cinema italiano. Tema di questa edizione del Courmayeur Noir in Festival, l'Apocalisse, argomento frequentatissimo nel cinema degli ultimi anni, come racconta Gianni Canova, ordinario di storia del cinema e preside della Facoltà di Comunicazione dell'Università IULM di Milano, sempre al microfono di Marta Cagnola. Direi che soprattutto negli ultimi 10 anni, dopo l'11 settembre 2001, i film apocalittici si sono moltiplicati, aggregandosi sostanzialmente attorno a due filoni. O i film che mettono in scena il momento della fine, penso ad esempio L'alba del giorno dopo, oppure i film che mettono in scena la catastrofe già avvenuta, allora 28 giorni dopo di Danny Boyle, piuttosto che La strada, tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy. In entrambi i casi la figura del protagonista è quella del sopravvissuto, che diventa un po' il personaggio chiave del cinema apocalittico post 11 settembre, cioè colui che per qualche ragione non è stato coinvolto nella catastrofe e che si trova a dover ricominciare a fondare città e a costruire forme di relazione umana. Non era così nel cinema catastrofico degli anni 50, 60 e anche 70, dove, come ho detto nell'intervento qui a Courmayeur, prevaleva la sindrome di Nerone, cioè il piacere di noi spettatori di assistere comodamente seduti in poltrona a spettacoli di catastrofe naturale. Adesso invece mi pare domini la sindrome di Enea, cioè il vedere un sopravvissuto che cerca, come Enea, di rifondare una città e di ricominciare da capo. Anche per oggi, per Punte a Capo, è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco e un ringraziamento in regia Valeria Bernardi. Una buona giornata.